la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:37 primi 34 secondi, cominciamo ancora più tardi del solito in questo mercoledì 15 ottobre, un saluto a voi tutti, grazie e vi dico subito, chiamate se siete interessati a dirci la vostra opinione su una delle scelte. Sapete che il Consiglio dei Ministri è slittato alle 18, quindi entro stasera dovremo sapere in concreto davvero che cosa ci aspetta per la legge di stabilità, però il governo pare che confermi la scelta della possibilità di avere in busta paga per i lavoratori dipendenti il TFR. Tutte le modalità tecniche per assicurare quello che dice il governo, cioè che non costi di più alle piccole imprese, li apprenderemo dopo, perché la cosa passa attraverso il fatto che siano le banche ad anticiparlo, e significherebbe che le banche devono anticipare molti soldi a rischio zero, e non so come facciano, e a un tasso di interesse di poco superiore all'1%, che credo che non danno a nessuno, ma questo lo vedremo. La cosa che però pare ragionevolmente sicura, e per questo vi chiedo la vostra opinione, è che ai dipendenti privati sarà possibile chiederlo TFR in busta paga. Voi come la pensate? È chiaro che sono soldi vostri, quindi dice facile, però vi farà comodo per i consumi? Nella maggioranza di sondaggi fatti dai diversi istituti demoscopici, l'opinione degli italiani è più contraria che favorevole, perché gli italiani dicono no, noi preferiamo che TFR continui a stare dove stia perché mi servirà più avanti. Poi c'è l'aliquota di quelli che alimentano con quello la scelta previdenziale integrativa, però non è, diciamo, delle diverse cose, a differenza del bonus 80 euro, non è nei sondaggi un tema sul quale c'è una travolgente ondata di felicità. Tra le tante cose, quindi telefonateci per dire come la pensate, però tra le tante cose è confermato quello che già vi avevamo detto sin dall'inizio, siccome lo Stato non accantona il TFR mese per mese, come è l'obbligo per le aziende private, per i suoi dipendenti, cioè per i dipendenti pubblici, e quei 3.200.000 di dipendenti pubblici questa facoltà non ce l'avranno, perché lo Stato dovrebbe mettere mano ha una spesa corrente aggiuntiva, poiché non lo accantona mese per mese, come ovviamente sono invece obbligati a fare i privati, che devono rivalutarlo dell'1,75% ogni anno più il 70% dell'inflazione. Adesso l'inflazione non c'è, però i privati sono costretti a farlo e lo Stato non lo fa. E allora, per questa asimmetria un po' singolare tra le tante, mentre sul resto della manovra ci sentiamo domani, sentite Radio 24 da stasera a domani mattina in tutte le lezioni, in tutte le trasmissioni, per capire davvero se è vero che non ci sono tasse aggiuntive, perché invece ci sono negli schemi 5 miliardi di entrate aggiuntive, è vero che ci sono 18 miliardi di sgravi tra bonus e, molto importante, i 6,5 miliardi, se confermati, di abbattimento dell'intera componente riservata all'occupazione dell'IRAP, che è una cosa, è forse la cosa più forte della legge di stabilità. Però dall'altra parte, capire come sono questi 16 miliardi di euro di tagli e questi 5 miliardi di euro annunciati di maggiori entrate, beh, non è così secondario, perché senza di questi, pur contando gli 11 miliardi che sono in deficit perché il governo ha deciso di sfidare l'Europa, e anche questo sarà un altro problema, beh, però sapere da dove vengono i 5 miliardi di entrate in più, capite che non è così secondario in giorni in cui tutti stiamo scoprendo che la TASI, a differenza di quello che ci avevano detto, costa di più e non di meno per moltissimi italiani. Tra l'altro vi faccio presente che sui tagli dalle anticipazioni ci sono comunque 4 miliardi di tagli a carico dei ministeri, 4 miliardi di risparmi dalle regioni, 1,5 miliardi di risparmi dai comuni, perché per i comuni e le regioni gli si anticipa l'azzeramento del deficit al 2015, sta scritto nella nota di aggiornamento del DEF, ed è per questo, per questa asimmetria sul TFR e per questi tagli aggiuntivi sul settore pubblico, ministeri, comuni e regioni, che mentre aspettiamo le vostre telefonate ho deciso di sentire l'opinione di un sindacato, ma del settore pubblico, per capire come la pensano loro del fatto che non avranno diritto al TFR anticipato in busta, e che cosa ne pensano loro di questi tagli aggiuntivi nel settore pubblico che comunque ci sono nelle bozze della legge di stabilità. E quindi con noi per parlarne lo ringrazio Giovanni Favarin, che è il segretario nazionale della funzione pubblica della CISL. Buon pomeriggio Favarin. Buon pomeriggio a lei, agli ascoltatori. Cominciamo dal TFR, ma per voi è un bene o un male che i dipendenti pubblici non potranno averlo in busta a differenza dei privati? Ma rimaniamo convinti, come la maggior parte forse degli ascoltatori, come lei ha rivelato nei sondaggi, che non ci pare l'uovo di Colombo. Sarebbe stato interessante che rispetto all'asimmetria che c'è, il datore di lavoro pubblico, che è il più grosso datore di lavoro senza direzione che esista da anni, non solo per colpa di questo governo, avesse deciso di utilizzare meglio questo accantonamento concesso, cioè di fare in modo ad esempio che i lavoratori pubblici potessero chiedere anticipi come nel privato, perché forse è la funzione migliore quando una persona, una famiglia ha delle spese importanti, degli investimenti da fare, come fa nel privato, può fare richiesta. Quindi ci sembra intanto un altro elemento di non equità. Perché storicamente, spieghiamo a chi è in ascolto, perché chi non è un lavoratore pubblico non lo sa, siccome la maggior parte poi dei dipendenti privati ce l'hanno con il pubblico, come sa, spieghiamo storicamente perché i dipendenti pubblici non hanno, sulla cosa che lei ha appena detto, gli stessi diritti dei dipendenti privati, cioè non possono utilizzare il TFR in garanzia? Intanto perché è un maggiore aggravio di costo allo Stato. Lo Stato chiede agli italiani e alle famiglie di fare un bilancio vero, ma lui ha un bilancio falso. La retribuzione che dà ai lavoratori pubblici è una retribuzione, una parte reale, una parte virtuale, quindi è come se non raccontasse la verità sulle sue casse, perché non accantonando proprio in termini figurativi crea un differisce un costo, certo, ma non si rende conto del peso che può avere durante. Se fossero veritieri, lei ha perfettamente ragione, un privato che facesse la stessa cosa sarebbe soggetto ad alterazione della veritiera rappresentazione falso della propria situazione contabile, falso in bilancio, esattamente. È proprio così, e questo mi spiace, capisco le difficoltà del momento di questo governo, perché è lo stesso elemento di come, tra l'altro, fa un privato quando deve rinnovare un contratto, guarda i costi di incidenza sul processo, sul prodotto, sulla linea, sulle innovazioni, ma ci mette dentro anche un costo del lavoro. Lo Stato non fa neanche quello, ed è uno dei motivi per cui, altra cosa mi pare abbastanza grave, un governo giovane così bravo a inventarsi raccolte di 30 miliardi, utili in alcuni casi, non pensa minimamente, è il sesto anno, che 3 milioni dei suoi dipendenti possano essere coinvolti, costretti, aiutati, incentivati con l'unica leva che sappiamo, il contratto di lavoro, che non viene rinnovato neanche per il 2015, a mettersi in gioco in un paese che molti ne fanno. Quindi mi pare di dire che anche i tagli sui ministeri o sui comuni e le regioni, guardi, non sono problematici in quanto tali, sì, ma non sono tagli su prodotti. Sono tagli sull'incapacità di disegnare un'evoluzione che dica: mi servono un terzo degli enti centrali e locali. Oh, bravo, sono completamente d'accordo con lei. Che la questione, per cui devo dire, se il prodotto ricongiunzione o il prodotto autorizzazione alla produzione di un'attività serve o non serve, chi deve farlo? Allora io sono stupito del fatto che un giovane e un governo così giovane, fatto di gente che vuole cambiare veramente il percorso del paese, non abbia la capacità di dire che accumuleremo risparmi perché riduciamo di un terzo gli enti locali, bravo, le regioni, gli enti centrali, e sul prodotto facciamo il taglio. Non posso dirle una cosa, ma perché, scusi, ma adesso al di là lei è la funzione pubblica della CISL, poi ovviamente c'è quella UIL, ma perché il sindacato non si è battuto con forza per dire alla politica: ma signori, invece di bloccare il contratto dei dipendenti pubblici, oltretutto storicamente l'andamento degli aumenti contrattuali dei pubblici era asimmetricamente favorito rispetto agli andamenti del rinnovo dei contratti privati, è stato così per decenni in Italia, da anni a questa parte, con il blocco automatico, a cui si aggiusta per il contenimento dei costi anche il blocco delle sostituzioni se non più di un terzo di chi va in pensione, questo effetto si è così attenuato che praticamente non esiste più. Questo anche ricordiamolo a chi è a casa, perché no? Meno, esattamente. Allora, detto questo, ma allora perché non avete alzato la voce dicendo: ma approfittate della riforma titolo quinto per diminuire le regioni, ce ne siamo occupati due giorni fa, invece che 8.000 comuni, come dice Cottarelli, che sono troppi perché quelli di dimensione più piccola non possono offrire servizi efficienti, leviamone 2.000, stabiliamo la soglia e così via, perché lei ce lo dice qua, però nelle piazze non era utile che il sindacato lo dicesse nelle piazze, chiedesse agli italiani: manifestiamo per questo. Io credo che lei abbia ragione, nel senso che il sindacato del pubblico impiego nel passato si era convinto che, siccome avevano un impiego stabile, il contratto era previsto per legge, la legge tranquillamente gli avrebbe portato il dono del contratto. È stato un grande errore, perché il sindacato del pubblico impiego deve essere più interessato dei cittadini, del buon funzionamento e dei bilanci degli enti, che è l'unica strada per garantire futuro e qualità. E anzi, avendo avuto questo ritardo, ci siamo accorti amaramente che, non parlando della qualità del prodotto, del processo e degli sprechi, anche chi ha un'attività, ha un mestiere, ha una professionalità, viene messo all'angolo e anzi viene usato come grimaldello per dire che la spesa pubblica, cito solo i 10 miliardi in meno risparmiati per i rinnovi dei contratti, mentre la spesa pubblica totale è aumentata di 14-30 miliardi. E certo, perché per esempio i consumi intermedi, cioè come si fa il procurement, gli acquisti, quelli continuano a salire, malgrado che poi abbiamo bloccato i contratti ai dipendenti e così via. Ma quelli garantiti in 35.000 stazioni di acquisto nella pubblica amministrazione italiana, 35.000, quelli continuano opacamente a salire. Io su questo, fino a questo momento, sono d'accordo con lei dalla prima all'ultima parola. Iniziamo con le telefonate, cominciamo con Francesco da Vicenza. Prego Francesco. Buonasera. Sì. Rapidissimo, due cose. La prima, è vero che il TFR è nostro, però è anche vero che noi siamo a rischio, perché qui da noi nel nord-est è successo più di qualche azienda che sono arrivati e hanno trovato l'azienda chiusa e poi i soldi non li vedi più. Sì. Non c'è un fondo di garanzia, non c'è niente, cioè se noi sono nostri, ma sono veramente a rischio, assolutamente in questo periodo. Quindi lei dice, visto che il rischio si è accentuato, tante vale averli in busta. Cioè, uno comincia a pensarti. Non è che le dico. Io ho 25 anni di liquidazione, sono 40.000 euro lordi. Ecco, non proprio pochi per chi lavora. La seconda cosa velocissima che volevo dire, sì, era la tassazione. Bravo. Cioè, come vengono tassati? Perché ho chiesto l'anticipo della liquidazione per ristrutturare la prima casa, sì, ma io ci rimetto 10.000 euro secchi solo di tassazione. Lo so, e questo sarà anche da vedere, perché il governo ha detto che mette l'aliquota minima IRPEF, quindi 23%. Io vi ricordo che sull'accantonamento annuale lo Stato prende solo l'11%, quindi è ovvio che lo Stato incasserà un bel po' di soldini. Questo aspetto non è secondario, quello che ci ha ricordato Francesco da Vicenza. Sentiamo Gianfranco da Verona. Prego Gianfranco. Allora, buonasera a tutti. Sì. Attenzione, ma per quale motivo non si deve dare il TFR? Cioè, io mi domando, persone come Danino, sì, come lei o come altre persone che hanno la possibilità di parlare con milioni di persone, eccetera, è una cosa assurda non darlo. Io sono un titolare di azienda, ma per me, che faccia il sacrificio o no, preferisco darglielo subito, perché dopo, alla fine della loro carriera, della loro vita, gli operai sono liberi di avere i suoi soldini. Gianfranco, prima, lei pone una questione che per me, che sono liberale e liberista, è una questione proprio di principio. Anche per me la decisione dell'accantonamento, quindi salario differito, viene da una concezione dello Stato mamma. Lo Stato, diciamo così, si fidava più di questo obbligo che della libera scelta di ciascuno dei propri soldi. Quindi io la penso come Gianfranco. Cosa diversa è poi presentarlo come un grande aiuto, visto che tanto sono i soldi di coloro che li riceveranno. Io posso essere d'accordissimo, liberalizziamo questa cosa. Cosa diversa è farne un pilastro, perché a oggi credo che poi l'effetto sarà un po' analogo a quello di 80 euro, servirà a ripristinare, come giusto per tanti che hanno perso reddito o non ce l'hanno, i livelli di reddito perso più che consumi. Però questa è la condizione di cui bisogna discutere. Sentiamo Antonio dalla provincia di Salerno. Prego Antonio. Sì, salve, buonasera, grazie per avermi convocato e complimenti a tutto lo staff di Radio 24. Grazie a lei. Volevo sapere, allora, io diciamo in certo qual modo sono anche d'accordo per il TFR in busta paga a fine anno, però quello maturato lo gestisce ancora lo Stato, l'INPS, il datore di lavoro, o ce lo verrà messo in busta paga? Allora Antonio, altro problema tecnico di cui bisogna capire come funziona. Da quello che abbiamo capito fino a questo momento, si parla della corresponsione di quello che matura anno per anno, e bisogna vedere se è una sola soluzione annua all'incasso invece che mese per mese, non quindi dello storico accumulato. Ecco, questo è quello che noi abbiamo capito fino a questo momento. Vedremo se sarà così. Quindi la sua domanda, bisogna di capire che cosa approvano davvero in Consiglio dei Ministri. Faverin, lei che ha capito invece? Danno anche lo storico? No, non mi pare proprio sia in condizione di dare lo storico. Vorrebbero per la tassazione aggiuntiva. Bravo. Però mi pare proprio che non ci sono le condizioni. Allora, siccome nel frattempo entrano in vigore pezzi dei decreti attuativi, Madia, riforma pubblica amministrazione e così via, come rispondiamo a un bel po' di nostri sms che dicono sì, però nel settore pubblico si dice, è vero che è diminuito il numero grazie al blocco del turnover, però la mobilità, i dipendenti pubblici continuano a non vederla mai se non sulla carta. Lei che ci dice invece di quello che è stato modificato della mobilità con la riforma della pubblica amministrazione? Ma la Madia fa un'operazione di questo tipo: siccome non riesco a cambiare le teste dei politici, dei dirigenti di troppi enti, metto in moto i dipendenti, che francamente, se fosse vista dal lato dell'efficienza, potrebbe essere interessante. Ora, la questione vera è che a richiedere più mobilità e ascensore professionale, ho le mie competenze, le metto in gioco nel comune, nell'ASL oppure all'ufficio delle entrate, si è sempre stata bloccata dalla pubblica amministrazione, perché c'è stata mobilità tra dirigenti portati dalla politica, quindi non c'è una contrarietà. E rispetto alle tutele che giustamente qualche ascoltatore fa notare, ma noi rivendichiamo un contratto pubblico-privato identico, perché ormai è già chiaro che in qualche comune dove c'è l'esubero rimane a casa. Quindi dobbiamo andare verso un'idea dove il contratto di lavoro, che sia pubblico o privato, deve essere identico e deve avere tutele legate alla qualità, alla competenza, alla misurabilità, dove i cittadini, nel pubblico e nel privato lo fanno, hanno il prodotto, il costo, nel pubblico non lo possono fare, perché la selva di norme che anche la Madia, rilegificando, e addirittura la legge delega porta a voler decidere da legge nazionale il merito e la competenza, un assurdo non giuridico di innovazione che non c'è. Quindi hanno vedremo. Mi pare di capire che sulla mobilità siamo ancora in alto mare, per così dire. Ci sono anche tantissimi problemi segnalati nelle vostre SMS, per esempio cosa succede a chi fino a questo momento lo utilizza il TFR per il complementare, che è molto incentivato fiscalmente. Da quello che abbiamo capito, se decidete di prendervelo perdete anche l'aliquota dell'azienda sul complementare. Vedremo stasera, intanto continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.